à mon séjour chez les insens. J'ai cru y perdre mon latin. Pascal, oui, je suis ta conscience. Ça alors, tu ne dois pas juger ainsi les hommes. Si tu ne veux pas rester seul ad libitum. Pascal, oui, je suis ta fréquence. La seule onde au monde que tu dois écouter. Rejoins les tiens et fume le calumet de la paix. Quelque part. Si avvisano i viaggiatori che il treno da delle 11 ripartirà domenica prossima dalla stazione di Radio 24. Si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno da @radio24.it.